Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 25 di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino e anche oggi, mercoledì 5 aprile dell'anno politico 2017, siamo a farci delle domande circa le cose che ci accadono. E chiaramente è il 5 di aprile, sono già due abbondanti settimane che siamo entrati nella primavera, e aprile per un fan, per uno studioso come me della saggezza popolare, dei detti, di quello che diceva la nonna che si tramanda da nonna a padri e madri e poi ai figli e via e via, ecco, da studioso, da interessato a questa disciplina, diciamo così, non posso far altro che dirvi aprile è dolce dormire. Questo è proprio un dato di fatto. Chiaramente io mi ricordo quando ero ragazzetto, quando ero giovane, che facevo, fate conto, le scuole elementari o i primissimi anni di medie, mi ricordo che arrivava l'aprile e mi sentivo invaso da una stanchezza incredibile, da una cosa inspiegabile, non si capiva, non capivo perché, chiaramente, nel mio essere ragazzetto. E mi ricordo appunto questo proverbio che diceva aprile dolce dormire, e pare che chiaramente sia una cosa abbastanza normale, abbastanza riconosciuta addirittura anche dalla clinica per questa cosa, perché sembra che sia dovuta all'aumento delle ore di luce, per cui il nostro corpo si deve abituare alla tanta luce in più e di conseguenza con più luce si sente più stanco, più o meno il cervello ragiona così. Il cervello e di conseguenza il corpo, perché chiaramente non è il corpo che comanda ma è il cervello che comanda tutto. Quindi perché l'aprile dolce dormire? E per questo motivo, però, pensandoci bene, è un po' un paradosso, perché a me mi sembra, nel senso, ci sono le giornate più lunghe, c'è più luce, fa più caldo, si sta meglio soprattutto fuori che magari nei mesi invernali, in cui fa molto presto notte, in cui fa freddo, in cui piove di più e tutto quanto. Quindi dico io, è talmente bizzarro che il nostro cervello ci faccia alla fine ragionare al contrario, perché alla fine a me mi viene di pensare inizia l'estate, iniziano le giornate più lunghe, il sole più caldo e tutto quanto, è il momento perfetto per far rinascere il corpo, per stare a godersi il sole, farsi inondare dai raggi del sole, chiaramente senza prenderlo in maniera squilibrata, perché l'equilibrio in tutto quello che facciamo è una cosa che non è preferibile se non l'abbandoniamo mai, se riusciamo sempre a mantenere l'equilibrio fra le cose che facciamo, sia in una direzione sia in un'altra, che ci sia equilibrio. Quindi andare a prendere il sole, magari senza esagerare e tutto quanto. Chiaramente il sole fa molto bene al corpo, a parte l'attivazione della vitamina D, che comunque è una vitamina importante, però fa molto bene perché è l'energia, il sole è l'energia di tutto, è l'energia della terra, è l'energia della vita. Il sole e le piante rimettono i butti, come si dice, rimettono i fiori, e quindi tutto riparte. Addirittura la festa del sole, che non è a primavera come si potrebbe anche magari ipotizzare, ma chiaramente per chi non lo sa ve lo dico, la festa del sole è quel giorno particolare dell'anno che è il 25 dicembre, che guarda un po' è un giorno molto particolare in un sacco di religioni, ed è la festa del sole. Ma non è la festa del sole a caso, perché le religioni dicono che è la nascita di Gesù Cristo, come la religione cattolica. Non è che hanno fatto per i laici, per scimmiottare questo, è che è la festa del sole perché passati tre giorni dal solstizio d'inverno fra il 21 e il 22 dicembre, le giornate in questi tre giorni, solstizio d'inverno è la giornata più corta, nei giorni successivi le giornate praticamente restano invariate, quindi sono corte alla stessa maniera. Dal 25 dicembre le giornate riprendono piano piano ad allungare fino ad arrivare a quello che sarà il 21 di giugno, esattamente 6 mesi dopo, per il solstizio d'estivo, quindi la giornata più lunga. Bene, quindi addirittura la festa del sole, perché la vita parte, la vita va con il sole. Però l'uomo cosa fa? Il sole ce n'è di più, le giornate più lunghe, e ci afflosciamo, ci adagiamo, ci sentiamo stanchi. E cosa succede? Ci sentiamo stanchi, riposiamo un po' di più, e più riposiamo e più ci sentiamo stanchi. Poi, per molti, questo riposo non è un riposo prettamente fisico per riposare il corpo stanco, è un riposo della testa, nel senso che si entra in quel circolo vizioso che è l'ozio, che chiaramente anche qui saggezza popolare, per saggezza popolare l'ozio è il padre dei vizi. Quindi te magari sei abituato ad andare in palestra e vai tranquillo come un fulmine per tutto l'inverno, perché già ti immagini a fare la prova costume per il giugno successivo sulla riviera adriatica o un'altra riviera qualsiasi, quella che vi piace di più, e quindi vai, sì, ti impegni, e poi arriva questo magico aprile, questo torpore che ci invade, stai 2 giorni senza fare lo sport che di solito fai e ti entra forte una voglia di non fare assolutamente niente, e quindi poi devi forzarti molto per ricominciare e ripartire, salvo poi, una volta ripartito la prima volta, basta, solo una volta, capisci ma quanto sono stato stupido a fermarmi, ad adagiarmi a questo aprile, perché chiaramente quando poi hai fatto lo sport, quando poi hai rimesso in moto il corpo, sei stato all'aria aperta, non c'è bisogno di fare sport, di fare gli atleti, se andate in palestra non c'è bisogno di diventare l'omino della Michelin o Big Gym, è uguale se vi piace fare jogging, non c'è bisogno di fare la maratona per dimostrare che siete attivi, ma basta fare, che è quello che il più delle volte ci inibiamo, perché è per la mancata voglia di fare, per l'ozio. Basta fare, vi piace stare all'aria, vi piace correre, andate a fare una corsetta di 30 minuti, tranquilla, non succede niente, il caldo, il sole, ma anche quello che si vede, gli alberi che hanno rimesso le foglie verdi, che stanno rimettendo i fiori, e i profumi della primavera, e sono una cosa favolosa. Se avete possibilità di andare a correre, non magari su una pista ciclabile che fiancheggia una strada super trafficata, che lì i profumi sono quelli dei gas di scarico, tant'è, qualcuno non può fare a meno che farlo lì, meglio fa che non fare niente, ci mancherebbe altro. Però se avete la possibilità, andate a correre un po' fuori, un po' nella campagna, andate a passeggiare, fatevi una passeggiata di 30 minuti senza durare fatica, e godete della vita che vi sta rinascendo intorno. Non ce ne accorgiamo, siamo impegnatissimi nelle nostre cose, sempre a corsa di qua, di là, e devo fare questo, e devo fare quello, e porta i figli di sotto, e porta la nonna di sopra, e va dal dentista, e vai di qua, e paga la bolletta, e un pensiero, e l'altro, e scade l'acqua, e leggi il conto, e c'hai sempre da farmi le cose. No, prendetevi poco, mezz'ora, 40 minuti al giorno, e godeteveli per voi, soprattutto in questo periodo dell'anno, perché questo è un periodo dell'anno magico, riparte tutto, e noi, se ci adagiamo, ci sentiamo tirati giù, a tratti negativamente sprofondiamo, ma se questa forza che ci attrae verso l'ozio la combattiamo e la vinciamo, basta veramente poco, ci sentiamo rinati, basta veramente fare molto poco, il corpo vi dice dice grazie, il cervello vi dice grazie, siete più che appagati. Chiaramente all'inizio è una battaglia contro il vostro ego, perché è il vostro ego che vi dice no, ma stai sul divano, dai, ma accendi la televisione, ma guardati Paolo Bonolis, ma ascoltati Ligabue, stai qui e trovi una scusa, no, non posso andare perché c'ho il ginocchio dalla lavandaia, c'ho il gomito del tennista, mi è entrata una bruschetta in un occhio. Si trovano le scuse più allucinanti per fermarsi, per oziare, quando invece quello che ci fa bene è assolutamente il contrario. Non a caso l'ozio è inserito fra i peccati capitali, perché l'accidia altro non è che l'ozio. Quindi volevo dire, seppure gli insegnamenti religiosi ci danno queste indicazioni, sarà forse il caso di farsi qualche domanda e di portare avanti una vita più regolare e più armoniosa, perché alla fine, fermandosi, oziando e tutto quanto, disequilibriamo la nostra vita e usciamo da un'armonia. Chiaramente è pure la medicina, se ci fate caso, pure la medicina dà i consigli per questa cosa, perché alla fine è riconosciuta anche clinicamente il fatto di sentirsi un po' stanchi, e si chiama clinicamente, si chiama astenia, che viene da un termine greco che è stenos. Praticamente pure la medicina vi dice come fare per risolvere questo problema di astenia. Praticamente cosa vi dice? Di tenere una dieta equilibrata, quindi carboidrati la mattina e molta frutta e verdura fresca, e di tenere una vita equilibrata pure da un punto di vista fisico, quindi di muoversi. Chiaramente molti di noi sono costretti magari all'ufficio, sono costretti magari a una vita sedentaria per molte ore al giorno, bene, ma c'è giorno ormai fino a oltre le 7 di sera, quindi se anche rientrate a casa alle 6, che vi ci vuole? Vi mettete un paio di pantaloni comodi, un paio di scarpe comode e ve ne andate mezz'ora a fare due passi in giro, vedete le cose, magari vi incontrate pure qualche persona per farvi una sana e interessantissima chiacchierata, che se foste stati a casa no, ve la sareste auto inibita. Quindi diamoci una mossa, muoviamo il culo, come si suol dire, nel senso che diamoci una mossa e vogliamoci bene. Questo servirà per superare questa stanchezza dell'aprile e soprattutto servirà per appisolare il vostro ego in favore della vostra salute, sia di testa che di corpo, perché chiaramente l'ozio è governato dall'ego. E per la nuova rubrica del vagabondo, ovvero il cafone vagabondo, che è giunta al suo secondo appuntamento, il cafone di questa settimana è un cafone che probabilmente non è che vi riguardi più di tanto da vicino, nel senso che probabilmente non lo sarete voi in prima persona, ma quante ne incontrate in giro. Il cafone questuante, vale a dire il cafone che chiede l'elemosina, perché alla fine si capisce che ci possono essere dei problemi, però già che non fai niente, e qui si rientra nell'ozio, e poi pure ti metti a chiedere l'elemosina per non fare niente, ma c'hai un sacco di tempo libero perché non fai niente, impara a fare qualcosa, o no, o è troppo difficile, oppure è più comodo chiedere l'elemosina senza fare niente. Almeno qualcuno si ingegna e fa finta di suonare una chitarra, fa finta di saper suonare una fisarmonica, qualcuno la suona davvero. In qualche modo, che ne so, sei al ristorante, viene quello col violino mentre mangi e te gli dai i soldi, ma non perché è bravo e che ti piace quello che suona, perché perlomeno questo si leva dai tre passi e te puoi continuare a mangiare in pace, in santa pace. Quindi questi sono proprio dei grandissimi cafoni che si fanno invadere dall'ozio, che era l'argomento della puntata del vagabondo di oggi, e che alla fine si ripercuotono anche contro di noi. Chiaramente e ce li attiriamo, perché probabilmente una persona oziosa si imbatte più facilmente in un questuante ozioso, e niente da fare. Bene, quindi questa era la fine della puntata del Vagabondo in giro per il mondo di oggi, e come sempre l'appuntamento per voi è sulle frequenze di Radio Big World anche per il prossimo mercoledì, e nel frattempo combattete l'ozio e siate saggi.